ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. Il battesimo. Quando arrivò il giorno in cui la bimbetta di Skrolica dovette essere portata dal pastore per il battesimo, Jan, suo padre, si comportò così stupidamente che per poco non venne rimproverato sia da Katrinna che dai padrini. Era la moglie di Erik di Falla che doveva tenere a battesimo la bambina. Si recò fino alla parrocchia in calesse, con la piccina fra le braccia, e lo stesso Erik di Falla camminava a piedi di fianco alla vettura tenendo le briglie. Il primo tratto di strada, fino alla ferriera di Durnas, era in così cattivo stato che a malapena poteva chiamarsi strada. Ed Erik di Falla preferiva essere prudente dal momento che aveva una bambina non battezzata da condurre. Jan di Skrolica era rimasto immobile a guardare la partenza. Aveva portato egli stesso la bambina fuori dalla casetta e nessuno sapeva meglio di lui a che persone per bene l'aveva messa in mano. Sapeva che ci si poteva fidare di come Erik di Falla guidava, come di ogni altra cosa che faceva. E sapeva anche che la padrona di Falla aveva messo al mondo e allevato 7 figli, e dunque non avrebbe dovuto provare la minima inquietudine. Ma quando furono lontani e si rimise a scavare nel magese di Erik, Jan fu preso da un'ansia spaventosa. E se il cavallo di Erik di Falla avesse morso il freno? E se il pastore avesse lasciato cadere la bambina nel prenderla dalle mani della madrina? Oppure se la padrona di Falla avesse messo troppi scialli intorno alla piccola e questa ne rimanesse soffocata mentre la portavano alla parrocchia. Ripeteva a se stesso che era ingiusto nutrire simili apprensioni quando si avevano come padrini Erik di Falla e sua moglie, ma l'inquietudine non voleva abbandonarlo e sul più bello depose la vanga e si incamminò verso la parrocchia così com'era. Prese la scorciatoia per la montagna e si affrettò tanto che quando Erik di Falla arrivò con il suo carro nel cortile del presbiterio, Jan Andersson di Skrolica fu la prima persona che incontrarono i suoi occhi. È assolutamente necessario che il padre e madre siano presenti quando si battezzano i bambini, e Jan vide subito che i due di Falla erano rimasti male che lui fosse corso alla parrocchia. Erik non gli fece segno d'aiutarlo a staccare il cavallo e lo staccò da solo. E la padrona di Falla sollevò la bambina in alto sulle braccia e, senza rivolgere una parola a Jan, si avviò su per la salita, dritto dentro la cucina del presbiterio. Dal momento che i padrini avevano fatto finta di non vederlo, Jan non osò avvicinarsi, ma udì un breve vagito dal fagotto quando la padrona di Falla gli passò davanti. E così almeno poté sapere che la piccina non era rimasta soffocata per strada. Pareva anche a lui di comportarsi stupidamente a non tornare subito a casa. Ma ora si sentiva così sicuro che il prete avrebbe lasciato cadere la bambina che fu costretta a fermarsi. Per un po' attese nel cortile, poi salì verso l'edificio principale dell'abitazione ed entrò nel vestibolo. È quanto mai sconveniente che il padre entri anche lui dal pastore, soprattutto quando ha per il suo bambino dei padrini come Erik di Falla e la moglie di Erik di Falla. E quando la porta dell'ufficio del pastore si aprì e Jan Andersson di Skrolica, con il suo brutto vestito da lavoro, scivolò piano piano nella stanza, il pastore aveva appena iniziato la lettura e non era più possibile in alcun modo mandar fuori l'intruso. E il padrino e la madrina si ripromisero, non appena tornati a casa, di fargli sapere quanto si era comportato male. Il battesimo andò come doveva andare, senza il minimo pericolo di incidenti, e Jan Andersson non aveva avuto proprio nessun motivo per entrare. Un momento prima che la cerimonia finisse, aprì la porta e di nuovo sgusciò pian piano nel vestibolo. Aveva visto che tutto andava per il meglio, anche senza di lui. Dopo un po' anche Erik di Falla e sua moglie uscirono nel vestibolo. Dovevano tornare in cucina, dove la padrona di Falla aveva spogliato la bambina di tutti gli scialli superflui. Erik passò avanti e aprì alla moglie la porta della cucina, ma mentre l'apriva, due gattini si precipitarono inseguendosi nel vestibolo, rotolando fra i piedi della padrona di Falla, che inciampò e perse l'equilibrio rischiando di cadere in avanti. Fece giusto in tempo a pensare: ora cado con la bambina, lei picchia la testa e si ammazza, e io sarò infelice per tutta la vita, quando una mano vigorosa l'afferrò e la sostenne. e quando si guardò intorno scoprì che chi l'aveva aiutata era Jan Anderson di Skrolika, che si era fermato nel vestibolo proprio come se sapesse che lì ci sarebbe stato bisogno di lui. Prima che riuscisse a riprendersi e a dirgli qualche cosa, Jan era già sparito. E quando lei e il marito tornarono a casa in avventura, era di nuovo lì, a scavare. Aveva capito, adesso che la disgrazia era stata scongiurata, che poteva rincasare tranquillo. Né Eric né la padrona di Falla gli dissero nulla per il suo comportamento così sconveniente. Anzi, la padrona lo invitò a entrare e gli offrì il caffè, tutto sporco e infangato com'era, lì fuori sul maggese umido d'autunno. La vaccinazione. Quando la bambina di Skrolika dovette essere vaccinata, nessuno trovò da ridire che Jan, suo padre, l'accompagnasse, dal momento che così voleva. La vaccinazione doveva aver luogo una sera d'agosto inoltrato, e quando Katrina uscì di casa faceva già così buio che era ben contenta di avere con sé qualcuno che potesse aiutarla a passare le palizzate, i fossati e tutti gli altri ostacoli della miserevole strada. La vaccinazione doveva aver luogo a casa di Eric di Falla, e la padrona aveva preparato nel camino un così grande fuoco da essere sicura di non dover fornire altra illuminazione tranne una sottile candela di sego che ardeva sul tavolino dove il sacrestano avrebbe svolto il suo lavoro. A quelli di Skrolika sembrò, come a tutti gli altri, che il piccolo fosse l'ufficio della stanza. Ma ugualmente non si era riuscita ad evitare che l'oscurità formasse come una massa grigia lungo i muri, rendendo l'ambiente più piccolo di quel che era. E in quell'oscurità si distinguevano appena un gran numero di donne con i bambini, tutti sotto l'anno, che dovevano essere ancora tenuti in braccio, cullati, nutriti e accuditi in tutti i modi. Le donne erano per lo più occupate a svoltare i loro bimbetti da scialli e coperte varie. Poi li liberavano dei loro coprifasce multicolori e scioglievano i lacci che trattenevano la camiciola perché fosse facile scoprire il torace quando il sacrestano li chiamava al tavolo della vaccinazione. C'era uno straordinario silenzio nella stanza, nonostante il gran numero di piccoli strilloni radunati in un sol posto. Sembrava che si divertissero tanto a osservarsi a vicenda da dimenticare completamente di far chiasso. Le madri a loro volta stavano zitte per sentire meglio quel che diceva il sacrestano, che non smetteva un attimo di chiacchierare. «Non c'è niente di più divertente che andare in giro a vaccinare e a guardarsi tutti questi marmocchi», diceva il sacrestano. «Vediamo un po' se è una bella annata questa che avete da offrirmi». Il sacrestano non era soltanto sacrestano, era anche maestro di scuola e aveva vissuto tutta la vita in quel distretto. Quelle madri le aveva vaccinate, istruite, le aveva viste cresimarsi e sposarsi e ora si apprestava a vaccinare i loro bambini. Era la prima volta che i piccini avevano a che fare con lui, che avrebbe poi avuto un ruolo così importante nella loro vita. Sembrava che cominciasse bene. Una dopo l'altra, le madri si facevano avanti, si sedevano su una sedia presso il tavolo e tenevano il proprio bambino in modo che la luce della candela illuminasse il braccio sinistro denudato. Continuando a chiacchierare, il sacrestano praticava 3 incisioni sulla pelle liscia e bianca, senza che il piccino emettesse un lamento. Poi la mamma di turno portava il bambino davanti al camino e si fermava presso il fuoco per far asciugare il vaccino. Nel frattempo pensava a quel che il sacrestano aveva detto del suo bambino, che era grande e bello, che avrebbe fatto onore alla fattoria e che sarebbe diventato bravo quanto il padre e il nonno, chissà, forse anche di più. Le cose andarono così in tutta tranquillità finché non toccò a Katrina di Skrolika sedersi al tavolo della vaccinazione con la sua Clara. La bimbetta proprio non voleva saperne di essere vaccinata. Strillava, si agitava e sgambettava. Katrina cercava di farla star zitta e il sacrestano le parlava affettuosamente e con dolcezza, ma non c'era niente da fare. Era irrimediabilmente terrorizzata. Katrina fu costretta a portarla via per cercare di calmarla. Un maschietto, grande e forte, fu vaccinato subito dopo senza emettere uno strillo, ma quando Katrina ritornò con la bimba, fu lo stesso disastro. Non riuscì a farla star ferma quel minimo che bastasse al sacrestano per farle una sola incisione. Non era rimasto più nessuno da vaccinare, tranne Clara di Skrolika. E Katrina era proprio disperata che la sua bambina si comportasse così male. Non sapeva più a cosa ricorrere quando improvvisamente Jan si fece avanti uscendo dall'oscurità accanto alla porta. Prese la piccola fra le braccia e Katrina si alzò dalla sedia lasciandogli il posto. «Prova pure tu se ti va meglio», disse con un tono leggermente ironico, perché non era certo tipo da credere che il consunto piccolo garzone di Eric di Falla che aveva sposato potesse essere migliore di lei in qualche cosa. Ma prima di sedersi, Jan gettò indietro la giacca. E così si vide che nel suo angolino buio aveva arrotolato la manica della camicia in modo da scoprire il braccio sinistro. Desiderava essere vaccinato, disse. Non era stato vaccinato che una volta, e non c'era nessuna cosa al mondo di cui avesse tanta paura come il vaiolo. Appena la bambina vide il braccio nudo, si calmò e fissò il padre con i suoi grandi occhi intelligenti. Seguì con molta attenzione le mosse del sacrestano che incise sul braccio i tre segni rossi. Il suo sguardo passava dall'uno all'altro e poi si accorgeva bene che il padre non soffriva poi tanto. Quando Jan Anderson ebbe finito, si rivolse al sacrestano. Ora che la piccola è così tranquilla, forse potete provare su lei. Il sacrestano provò, infatti, e questa volta andò bene. La bambina mantenne per tutto il tempo la stessa espressione da saputella e non fece neanche un verso. Anche il sacrestano restò silenzioso finché non ebbe terminato il suo lavoro. Se l'avete fatto soltanto per tranquillizzare la bambina, Jan, avremmo potuto far finta. Ma Jan rispose, no, sapete, non avrebbe funzionato. Non esiste una bambina come questa. Non c'è speranza che uno riesca a farle credere una cosa che non sia vera. Il compleanno. Il giorno in cui la bimbetta compiva l'anno, Jan, suo padre, stava a scavare nel magese di Eric di Falla. Cercava di ricordarsi com'era la sua esistenza prima di allora, quando, mentre lavorava nei campi, non aveva nessuno a cui pensare, quando ancora il cuore non gli batteva nel petto e non sentiva mai né nostalgia né apprensione. «Pensare che un uomo può vivere in quel modo», disse, e provò disprezzo per se stesso. «Sì», continuò. «È questa la sola cosa che conta. Se fossi ricco come Eric di Falla o forte come Borie, che sta a scavare nel campo qui vicino, non significherebbe niente al confronto di avere un cuore che batte nel petto». Guardò dalla parte del suo compagno, che era un uomo di una forza prodigiosa, ed era capace di lavorare quasi il doppio di lui. E gli venne fatto di notare che Borie quel giorno non si era sbrigato tanto a scavare come faceva di solito. Lavoravano a cottimo, Borie prendeva sempre più lavoro di lui, e tuttavia finivano sempre pressappoco insieme. Ma oggi Borie era stato lento. Non era neppure arrivato al punto di Jan ed era ancora molto, molto indietro. È vero che Jan aveva lavorato con tutte le sue forze per tornare al più presto a casa dalla bimbetta. Oggi ne sentiva la nostalgia ancora più del solito. La bambina aveva sonno presto la sera e se lui non si sbrigava poteva darsi che la trovasse già addormentata per la notte. Quando Jan ebbe finito, vide che Borie aveva fatto sì e no metà del suo cottimo. Una cosa simile non era mai successa in tutti gli anni che avevano lavorato insieme, e Jan ne fu così stupito che si diresse verso di lui. Borie era chiuso nel suo fatto, e stava sforzandosi di rimuovere una zolla di terreno. Aveva calpestato un pezzo di vetro e si era fatto un taglio profondo sotto al piede. Non riusciva a sopportare lo stivale e si può ben capire quanto fosse penoso per lui star lì ad affondare la vanga nel terreno con un piede ferito. «Perché non lasci stare?» chiese Jan di scrolica. «Sono costretto a finire oggi», rispose l'altro. «Non avrò grano da Eric finché il lavoro non è pronto e la farina di segala l'abbiamo finita. Beh, buonanotte per oggi». Borie non rispose. Era così stanco e sfinito che non riuscì neppure ad articolare il consueto saluto della sera. Jan di scrolica andò fino al limite del campo, ma lì si fermò. «Che le fa la bimbetta se vai a casa per il suo compleanno?» disse a se stesso. «Sta bene anche senza di te. Lei. Ma Borie ha 7 bambini a casa e niente da dargli da mangiare. Vuoi lasciarli morire di fame per andare a giocare con Clara Gulla?» e se ti mi la risvola per arrabbiarti. Ma era già così stanco che non procedeva molto in fretta. Era quasi buio quando finirono. Ora Clara Gulla dorme da un pezzo, pensò Jan, quando finalmente ebbe dato l'ultimo colpo di vanga. Buonanotte per oggi, gridò a Borie per la seconda volta. Buonanotte, rispose Borie, e grazie per l'aiuto. Ora vado a prendere subito la segala. E ti darò una mano un'altra volta, stanne certo. Non voglio nessun compenso. Buonanotte ora. Non vuoi niente per avermi aiutato? Che ti succede che sei così gentile? È che... è il compleanno della piccola oggi. E per questo mi hai aiutato a scavare? Sì, per questo e anche per un'altra cosa. Già. Buonanotte. Se ne andò in fretta, per non essere tentato di spiegare che cos'era quell'altra cosa. Gli bruciava la lingua di dire: non è solo il giorno in cui è nata Clara Gulla, è anche il giorno in cui è nato il mio cuore. Ma fu un bene che non lo dicesse, perché Borie avrebbe certamente creduto che era diventato matto. Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.